così. Basta che la tua risposta sia sì. Fanno poi in modo che vedi il tutto da qui. Sai che è meglio così, stai molto meglio così. Non hai mai detto che poi ti prenda bene un cambiamento. Ultimamente tra noi qualcosa cambia ogni momento. Non mi cambia una chat, non mi cambia un nuovo sito, ma mi cambia la visuale quando il resto è sparito. Quando il resto sparirà, quando questo svanirà, qualcun altro, qualcos'altro, tutt'altro ci svelerà. In preda al panico qualcuno sparerà. Ma il rumore neanche più si sentirà. Quello che vuoi puoi averlo così. Basta che la tua risposta sia sì. Fanno poi in modo che vedi il tutto da qui. Sai che è meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Lo vedi da qui. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Lo vedi da qui. Stai molto meglio così. Meglio così, in fondo. Devi soltanto sederti e seguire il mondo. Aspetta che ti rispondo, se non rispondo, riprove per il responso, ci va un secondo. Tu tieniti pronto, attento. Digito i tasti dal mio PC, ma se lo tengo spento, sento che non sei qui, entro dentro a mondi prima inaccessibili, rendo tangibili nuovi sogni possibili. Possiamo fidarci l'uno dell'altro. Credimi, non ti ascolterei se non ti conoscessi. È che spesso incontro difficoltà nel rapportarmi con i tuoi progressi. Ti aspetti, io ti ascolto, osservo il modo in cui cambi canale. Sembra strano, col tempo sembra tutto più normale. Tutto è più normale, tutto a parte il prossimo concetto che si avrà e mi dovrò abituare. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Lo vedi da qui. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Lo vedi da qui. Molto meglio così. Quello che vuoi puoi averlo così. Basta che la tua risposta sia sì. Fanno poi in modo che vedi tutto da qui. Sai che è meglio così. Stai molto meglio così. Meglio così può darsi. E che sono lento a capire cosa può darci questo nostro adattarci. Tu mi sorpassi, stavo facendo due passi, riflettendo che dovremo prima o poi fermarci. O darci appuntamento dentro un sito stupendo, senza aspettarci, o scaricarci dei corsi di aggiornamento su come abbracciarci senza toccarci. Baci, io ti raggiungo più tardi collega, voglio convincere me stesso, se sei un fatto di mega mi creda. Il suo progresso mi piace, chi se lo perde c'è, che cerca un server che sappia ciò che mi serve. Tu quello di cui senti il bisogno, è di credere in più di un sogno, o perlomeno speri di restare in ascolto, di frasi che abbiano almeno un volto, più che un senso compiuto. Spesso mi parli senza avere un nesso, spesso confondi il bianco con il testo. Adesso, forse ne viste troppe per adesso, non sembra complicato. Credimi, stai meglio adesso. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Vedi da qui. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Vedi da qui. Stai molto meglio così. Quello che vuoi puoi averlo così, basta che la tua risposta sia sì. Fanno poi in modo che vedi tutto da qui. Sai che è meglio così, stai molto meglio così. Quello che vuoi puoi averlo così, basta che la tua risposta sia sì. Fanno poi in modo che vedi tutto da qui. Sai che è meglio così, stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Lo vedi da qui. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Stai molto meglio così. Lo vedi da qui. Lo vedi da qui. Stai molto meglio così.